Se mio nonno avesse le ruote, si diceva una volta, sarebbe un tramvai. Era una battuta bonaria, un po' stupidotta, che si utilizzava per censurare quanti ricorrevano ipotesi troppo ardite o per rintuzzare chi faceva conto su eventi affatto improbabili. Io la ricordo soprattutto perché quando insegnavo ai giovanetti i misteri della sintassi latina ero solito servirmene per prospettar loro un esempio di quello che si chiama il periodo ipotetico dell'impossibilità. Non so perché, ma invitate a tradurre quella frase, le creature reagivano meglio che se avessi proposto loro il classico: se i romani non fossero stati protetti dagli dei non avrebbero conquistato il mondo. Si mettevano di miglior umore, ridacchiavano un po', scherzavano tra di loro su come rendere nella lingua di Tacito l'espressione tramvai, ma alla fine, pazientemente guidati a un qualcosa come si avus meus lota saberet curus publicus esset o simili, ci arrivavano. E visto che in latino si tratta di un costrutto difficile, la cui struttura logica contrasta con quella della maggior parte dei sintagmi in uso in quella lingua, era già un risultato. Altri tempi. Oggi il periodo ipotetico dell'impossibilità è assunto al ruolo di modello principe dell'argomentare politico. Se ne sono ampiamente serviti in questa settimana tutti coloro, pochi in realtà, che hanno voluto difendere nel primo anniversario la decisione di portare la pace e la fraternità nel Kosovo bombardando a tappeto la Serbia. Nessuno di loro, naturalmente, poteva vantare qualche concreto risultato positivo, visto che le sofferenze e gli orrori che la guerra ha indotto in quel paese e nei nostri sono fin troppo evidenti, ma sono stati tutti fermissimi nel dichiarare che se non si fosse intervenuti la situazione oggi sarebbe molto peggiore. È un tipico argomento a pera, perché è vero che al peggio non c'è mai fine, ma nulla vieta di contrapporgli l'ipotesi opposta e simmetrica, per cui se non si fosse intervenuti tutto sarebbe andato assai meglio, ma ci si sono attaccati lo stesso con un'ostinazione canina. L'hanno fatto tra gli altri l'ex segretario della NATO, che è un tale Javier Solana, che deve essere uno che ama spararle grosse, visto che ha anche aggiunto che dal punto di vista interetnico Pristina oggi è più sicura di Chicago. E sfido, perché a differenza di Chicago, a Pristina di etnie oggi ce n'è una sola. E un sottosegretario agli esteri del nostro governo, che ha scritto sul giornale del suo partito, quale sia ovviamente non ve lo possiamo dire, un editoriale in cui dichiara che l'intervento ha sì violato la legalità internazionale, che certo sono saltati due obiettivi centrali della multietnicità del Kosovo e dell'integrità della Jugoslavia, che ammettiamo è stato un drammatico errore politico non contrastare l'UCK, che la comunità internazionale, ahimè, ha sbagliato nella scelta di sanzioni a oltranza contro la Serbia, ma che comunque quella scelta, dolorosa ma inevitabile, ovviamente, non fu inutile, perché se no chissà cosa sarebbe successo. Noi che sappiamo che cosa è successo in quest'anno, facciamo un po' di fatica a seguire questo modo di argomentare, che riduce il dibattito a una scelta astratta e rimuove come d'uso ogni riferimento agli effetti concreti di quell'intervento, alle vite umane distrutte, alle risorse dissipate, alla povertà indotta, e via dicendo. Ma ciascuno usa gli argomenti che ha, nella fidente attesa che di quella scelta dolorosa ma necessaria si perda poco per volta il ricordo. Ricordo che noi, per conto nostro, ci sforzeremo di preservare, nella consapevolezza che se avessimo una classe dirigente più seria, meno adusa alle futilità retoriche e meno propensa all'obbedienza cieca di fronte alle imposizioni degli Stati Uniti, certe cose forse non accadrebbero. Anche questa è un'ipotesi che meriterebbe di essere presa in considerazione. I think.